Ecco, allora, quindi mi avete chiesto, cioè mi hanno chiesto di farvi una sintesi di questo viaggio pastorale del prelato dell'Ostei a Milano e che è avvenuto dal 21 al 26 di agosto. Io ho potuto stare abbastanza vicino a lui a ascoltare vari interventi, quindi tra l'altro abitava nella casa dove io abito, quindi anche abbiamo insieme con tanti altri pranzato insieme, cenato insieme così. Quindi anche vi potrei dire qualche cosa, evidentemente non esaustiva dal punto di vista dei contenuti, ma la mia impressione sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista dello stile che lui ha avuto in questo incontro, in questi incontri. Allora, io farei una piccola premessa che cerco di fare sempre quando parlo di queste cose, che ovviamente che potremmo anche dare per scontata, ma è sempre bello farla, che è la paternità di Dio, cioè la Sacra Scrittura ci insegna che da Dio proviene ogni paternità sulla terra, no? E fra l'altro, proprio a proposito di questi giorni, io riflettendo sulla paternità di Dio, ho riletto in termini forse ancora più chiari per me il fatto che uno dei compiti che Gesù ha ricevuto dalla Trinità è quello di rivelarci Dio Padre, no? Il volto del Padre, il volto misericordioso del Padre. E allora, se voi ci riflettete sul fatto che Gesù stesso dice poi come il Padre ha mandato me, io mando voi, quindi se il Padre ha mandato suo figlio perché noi lo potessimo conoscere, Gesù dice a Filippo, chi vede me vede il Padre, no? Non mi hai ancora conosciuto, quindi allora, e poi ci dice come il Padre ha mandato me, anche io mando voi, allora vuol dire che ogni cristiano è mandato, ha ricevuto nel battesimo la missione di essere mandato nel mondo come Cristo e quindi di rivelare il volto del Padre, no? Però, quindi questo sono proprio convinto che così, cioè ciascun cristiano ha il compito di far vedere che Dio è Padre, cioè di poter dire il Padre stesso vi ama, no? Come ha detto Gesù ai suoi discepoli nell'ultima cena. Allo stesso tempo è vero che nella Chiesa alcune persone hanno in modo un po' speciale questo dono da Dio di rendere visibile la paternità, per cui potremmo dire in un certo senso i sacerdoti, pare di sì, perlomeno nella tradizione della Chiesa, vengono chiamati spesso padre, no? In tanti ambienti proprio li chiamano così. In modo particolare ovviamente il vescovo, il papa, no? Noi lo chiamiamo Santo Padre, il vescovo ha sempre questa funzione di paternità, quindi di rendere presente Cristo nella sua diocesi, ma anche in modo particolare la paternità di Dio, no? Allora ecco, nell'Opus Dei, che è una piccola parte della Chiesa Cattolica, anche esiste questa dimensione della paternità. Ed esiste, io penso che ecco, il fondatore San José Maria lo aveva percepito in modo molto chiaro, lo diceva che lui aveva colto come una parte essenziale della sua vocazione, senz'altro fondare l'opera, quindi aprire questa realtà nella Chiesa che lui chiamava anche in modi diversi, a volte ha chiamato questa mobilitazione dei cristiani, no? Oppure questa grande catechesi, oppure, no? Questa piccola parte della Chiesa, insomma, questa famiglia, no? Consapevole lui come fondatore di avere il compito di vivere una paternità, cioè in qualche modo di generare alla vita cristiana o alla vita cristiana, secondo questo spirito che il Signore gli aveva dato, molti figli e molte figlie, no? E anche che questa realtà sarebbe continuata con i suoi successori, cioè chi prendeva un po' il suo posto, perché questa famiglia, come accade in modo analogo nella Chiesa, appunto, c'è sempre un vescovo, no? Che se è possibile, no? Che la guida. Adesso qui a Milano abbiamo avuto l'esperienza, appunto, abbiamo salutato il cardinal Scola l'8 settembre in cattedrale. Io ero presente in quell'applauso così affettuoso, in cui anche in quel momento ho pensato: ecco, la gente ringrazia il cardinal Scola di aver esercitato la paternità in questi 6 anni. E poi adesso saluteremo l'ingresso solenne di Monsignor Mario Delpini, che prende il suo posto, quindi è sempre presente nella Chiesa Cristo, ma con questa Cristo capo e con questa caratteristica speciale della paternità. E in effetti, per esempio, appunto, vi ricordo un po' come nell'opera accade, appunto, il 12 dicembre scorso è morto il Monsignore Echevarria, e poi quindi si è fatto un congresso col compito di eleggere, con una serie di elettori, uomini e donne, che hanno il compito di eleggere, sì, di eleggere il successore, ecco, il padre, il prelato. E poi naturalmente è il Papa che gli dà questo, che conferma o meno, potrebbe anche non confermare, questa nomina, no? E in effetti il vicario generale, che è Don Mariano Fazio, che conosce bene il Papa perché è argentino, perché è stato vicario dell'opera a Buenos Aires in Argentina quando c'era Cardinal Bergoglio come cardinale di Buenos Aires, si sono conosciuti bene, si danno del tu, il Papa lo prende anche in giro volentieri, lo chiama quando c'è il suo onomastico, quando c'è il suo compleanno, il suo onomastico, insomma. Bene, e allora lui però come vicario generale ha portato il foglio in cui si decretava che era stato eletto, cioè l'opera sceglieva Monsignor Fernando Cariz, e il Papa al momento, cioè gli danno questo foglio e subito si dice: ah, benissimo, benissimo, lo controfirma, cioè come dire, mette la sua firma per dire: io confermo questa nomina, no? Quindi immediatamente, tanto che poi stavano a salutarsi, e lui dice: aspetta, aspetta, aspettate un attimo che vado a fare una fotocopia di questo documento, perché probabilmente la procedura doveva essere un po' più, come dire, ufficiale, un po' più complicata, no? Però, per dire, e il Papa in effetti ha molta simpatia per Don Fernando, ad altre persone ha detto come lo ammira per la sua umiltà. Una volta, qualche tempo dopo la sua, pochi giorni dopo la sua nomina, c'era un incontro, avevano organizzato già da tempo un incontro di sacerdoti dell'opera che sono parroci o viceparroci, insomma, per scambiare esperienze su questo loro. E allora questo sacerdote che veniva dall'America, è andato all'udienza del Papa, era in prima fila, l'ha salutato e gli ha detto: ecco, tra poco potrò incontrare il prelato dell'opera e gli devo dire qualcosa da parte sua. E il Papa si è fermato un attimo, si è soffermato un attimo, ha pensato un attimo e poi gli ha detto: sì, digli che non perda quella semplicità e quell'ottimismo, no, che ha, no? In effetti, anche nelle interviste il padre dice che sì, che è un dono di Dio, ma deriva dalla preghiera di tanti, dall'affetto di tanti, anche dall'incoraggiamento del Papa, che è sereno nonostante il peso, ovviamente la responsabilità di questo compito sia grande, no? Però è molto bello, io notavo che quando lui ha appena eletto, no, in questi video che giravano anche su internet, lui ha detto: beh, è una grande sfida, ma fra tutti e tutte la porteremo avanti, no? Cioè, questo desiderio di inclusività, ecco, mi è piaciuto molto ed è molto bello, e niente, e in qualche modo continua a manifestarlo, per esempio, in questi giorni a Roma ha chiamato persone dell'opera di varie nazioni, per ragionare con loro su il da farsi, no? Nel lavoro che il Signore ci affida, che la Chiesa, le sfide attuali, no? Sia con i giovani che con le famiglie, che con, insomma, nei vari settori di cui l'opera si occupa, no? E prima con gli uomini, adesso poi con le donne, e quindi di fatto sono 15 giorni di intenso lavoro insieme e anche ascolto, non gli ha proprio fatto sapere, beh, venite e io vi ascolto, quindi portate esperienze, portate idee. Allora, venendo a Milano, lui in effetti dopo, quindi era stato eletto quindi da 6 mesi, però già prima dell'estate ci ha fatto sapere che voleva fare questo giro, cominciava dall'Europa. Una volta eravamo a colazione, credo, insieme, cioè, e lui a un certo punto si è lasciato sfuggire, certo, no, che questi incontri sono sempre molto belli, e quindi lui è sempre molto, era molto contento, è stato molto contento di stare con noi questi 5 giorni, però dice, certo, siamo in 70 paesi, no? Cioè, come dire, cioè, andare in 70 paesi non è banale, anche proprio come dispendio di tempo e di energie. E questi lui ha scelto di dedicare ben 2 mesi, no? In qualche modo a conoscerci, non che, sapete, prima lui ha fatto da vicario generale con il prelato per 22 anni, no? Quindi io mi ricordo quando, è un ricordo che io quando ho sentito raccontare, quando fu eletto Don Cagliari Cevaia, allora lo scelse come suo vicario, no? Però lui per esempio, non faceva parte del giro degli elettori, quindi non era lì presente nell'elezione, quindi lo dovettero chiamare, no? Stava a fare i suoi lavori, i suoi studi, quindi, e comunicargli questa nota. Però loro hanno avuto, siccome lui dal 1986 era stato nominato, lui faceva il professore di teologia, no? Fondamentalmente come incarico principale, poi faceva sacerdote dell'Opus Dei, quindi ci sono molte persone che l'hanno avuto come confessore, come direttore spirituale, come predicatore nei loro centri lì a Roma, e poi faceva il professore di teologia alla Santa Croce, teologia fondamentale, è un teologo molto stimato, no? Da una grande profondità. E poi era stato nominato consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede, dove il prefetto era Cardinale Ratzinger, ancora nell'86, quindi parecchio tempo fa. E lui aveva, ce l'ha raccontato, 41 anni, quindi probabilmente era un po' dei più giovani, no? E allora, quando l'hanno voluto nominare vicario, Monsignor Cevaia, vicario generale, l'hanno chiesto a Ratzinger. Ho intenzione di fare questa nomina e lui ha detto va bene, però basta che non me lo togliete, no? Quindi che me lo lasciate come collaboratore. E in effetti ha continuato anche adesso, anche se ha diminuito molto le possibilità di collaborare come consultore. Infatti come consultore io apro molte parentesi, però cerco poi di tornare alla sintesi sul viaggio a Milano. No, come consultore lui, tra l'altro, in uno di questi incontri come questo, no, che abbiamo avuto dopo cena, in cui erano prevalenti i racconti che noi facevamo, cioè lui voleva che parlassimo noi, non parlava lui, no? Ascoltava per conoscerci, per sapere quello che facciamo, per sapere che lavoro facciamo, che l'apostolato dell'opera, come lo portiamo avanti, a livello più che altro personale, in questi incontri più. Allora, a un certo punto uno veniva e c'era ospite un sacerdote più grande che dice, beh, però padre, dica qualcosa anche lei. Allora lui ha raccontato un paio di cose e tra cui un aneddoto della sua storia che dice, l'ha raccontato molte volte, che quando gli hanno dato questo incarico dalla Santa Sede di consultore, no, di questa congregazione, lui ha voluto andare a trovare personalmente il padre Cornelio Fabbro, che era uno dei consultori con più esperienza, filosofo, ecco, padre stimatino, insomma, di grande prestigio, e per chiedergli qualche consiglio su come fare questo lavoro. E padre Fabbro gli disse: le do solo un consiglio, dica sempre tutto quello che pensa. E lui rimase un po' colpito, non se l'aspettava questo consiglio, e poi ci diceva. Dopo, certo, quando sono cominciate queste riunioni del lunedì pomeriggio in cui c'erano, allora si usava che fossero tutti i consultori che si radunavano adesso dice che hanno cambiato metodo e si radunano solo quelli che hanno studiato quel problema di cui si tratta e quindi anche hanno più tempo per studiare. c'erano grandi teologi, grandi filosofi, grandi professori di tutte le università pontificie romane, quindi lui diceva, se tu dovevi dire una cosa, un'opinione diversa da quella che degli altri, ecco, quel consiglio era utile, ecco, però questo è per esempio un concetto che anche si vede che anche passa a noi, no? Cioè, nel senso che anche noi dobbiamo poter dire quello che pensiamo, anche a lui, no? Quindi anche mi viene in mente che una supermeraia gli ha scritto una lettera in cui gli ha detto una serie di cose impegnative, no? Secondo lei vanno affrontate da lui, dal padre, come guida dell'opera, e allora lui l'ha voluta incontrare per pochi minuti, però lei è stata molto contenta di questo gesto, e poi le ha detto: hai fatto bene a scrivermi, anche dillo anche a tutte le altre che non si tengano per sé queste osservazioni, questi suggerimenti, ma che li scrivano. Ecco, allora io vi posso raccontare che appena il padre è arrivato a Milano, appena il padre è arrivato a Milano, benvenuta, e sono arrivati in macchina da Colonia, dove, ecco, era uno degli altri paesi. Loro hanno fatto Barcellona, poi Portogallo, Lisbona, Fatima, è andato a Fatima, poi è andato a Madrid, poi Belgio, Olanda, Germania, se non ricordo male. Ecco, in Germania ha potuto anche fermarsi un po' di più per riposare un attimo, cioè, in modo. E poi dopo, ecco, da Colonia, per esempio, una messa molto partecipata nella chiesa di San Pantaleone, che è una chiesa che è affidata ai sacerdoti dell'opera lì a Colonia, una chiesa antica molto bella, e da lì, ecco, in auto sono venuti a Milano. Sono arrivati dopo aver preso il loro spuntino in una di queste aree di servizio dell'autostrada, e sono arrivati verso le 7. Lui aveva saputo che il giorno prima era morta Maria Dolores Jiménez, che è una proprio delle prime due o tre che sono venute a Milano nel 54, e allora ed era malata da molto tempo, abitava lì nel centro Samara, vicino alla Tuscala. Ha chiesto se c'era tempo di andare a trovare, e quindi come prima cosa, no, della sua attività qui. Effettivamente c'era il tempo, anche per fortunatamente a Milano in quei giorni ci si spostava facilmente in macchina perché c'era meno traffico, e per cui di fatti anche io sono andato con lui, siamo andati verso per pregare un po', no, davanti al corpo di questa persona dell'opera che ha dedicato tutta la sua vita, ecco, a questo. Poi è stata sempre a Milano, e lui ha pregato in silenzio, ecco, inginocchiandosi davanti al suo corpo. Poi con molto affetto, mi diceva una persona che gli stava di fronte, non la guardava con molto affetto, e poi ha detto alcune parole belle, no, soprannaturali, di speranza, di un cielo molto grande per lei che ha dedicato la sua vita al Signore. E poi abbiamo recitato il responso, questa preghiera, insomma, tipica che i sacerdoti recitano quando c'è un defunto, e poi ha salutato le persone, soprattutto quelle che l'avevano seguito più da vicino, e poi siamo tornati a casa. E quindi questo è stato il primo gesto, diciamo, fuori programma, no? Perché pensate che per riuscire a fargli fare tante cose, che potesse salutare molte persone, chi era stato incaricato di questo, non io per fortuna, ha fatto vari programmi, poi cambiati a seconda di, no? Per esempio, una cosa che è cambiata è che avevano pensato, perché all'inizio la prima reazione è pensare: dal 21 al 26 agosto a Milano non ci sarà nessuno, ah, che peccato, ma perché? Perché non ci ha chiesto un consiglio, gli avremmo detto un'altra data più alla. Ma insomma, invece non ha. Ovviamente l'abbiamo accolta ben volentieri, no? Perché si capisce che era l'unica possibilità, perché d'estate lui, come ha sempre fatto anche altri suoi predecessori, un tempo in cui girano per vedere gente. E poi dopo lungo l'anno è più difficile perché c'è il lavoro a Roma, cioè governa l'opera da Roma, molto spesso per iscritto, oppure con incontri di lavoro lì come sta facendo adesso. E per cui era venuto in mente il 23 agosto di fargli fare il 23 agosto e veniva in mente che era un giorno in cui San Cosimaria ricevette una grazia del Signore particolare quando era in vacanza a Caglio. Quindi siccome quel giorno era dedicato ad andare a Uri, dice, andiamo a fare l'orazione al santuario della Madonna di Campoè, che è proprio lì vicino a Caglio, dove fra l'altro il parroco che è stato lì qualche anno, Don Valentino Vigano, ha fatto mettere sull'altare proprio quella frase che San José Maria ha sentito in realtà più che nell'orazione era a colazione, quindi, perché il Signore a San Cosimo Maria gli dava le grazie sul tram durante la colazione, quando leggeva il giornale, cioè per sottolineare che tutto è opus Dei, no? Che, allora, adiamus con fiducia tronum gloriae ut misericordia nos seguam, cioè andiamo con fiducia al trono della gloria a Maria per ottenere misericordia. Allora c'era l'idea di fare l'orazione lì. Poi, per combinazione, io qualche giorno prima sono andato a trovare i miei genitori che villeggiano lì vicino a Guello di Bellagio e loro, che aspettavano questo momento, mi hanno detto: beh, veramente proprio alle 5 del 23 c'è una messa in quel santuario, poi prima c'è il rosario. Allora io ho segnalato questa piccola aporia nel programma e loro hanno detto: ah, sai che c'è? Non ci andiamo più perché c'è un sacco di gente che sta chiedendo, famiglie, no? Di parlare con lui e non c'è più posto, allora rinunciamo all'orazione mistica nel santuario lì in mezzo al bosco, bellissimo, piccola che c'è lì vicino, e invece torniamo a Milano così salutiamo un po' di gente, ecco. Quindi questo per dire una variazione del programma. Però per dire la prima cosa che ha fatto è stata una variazione del programma, cioè siamo andate da Maria Dolorosa a pregare. E la seconda variazione di programma è stata che il funerale, no? Che non era per niente previsto, certo saggiamente qualcuno ha pensato mettiamolo il mercoledì mattina alle 9 che comunque potrebbe essere, no? Che lo celebra lui, ma in effetti quando gli avevano proposto subito ha detto di sì. E questo io penso che, così come anche fa a Roma, il padre in generale a Roma, se muore qualcuno dell'opera, soprattutto numerai, aggregati, no? Celebra se può, no? Con l'idea di dire, se anche nel resto del mondo, se fossi lì presente, lo farei questo gesto di paternità. No? E quindi qui col piccolo, diciamo, impegno di ripassare, cioè di ripassare, di imparare le differenze della messa in rito ambrosiano, che Don Matteo si è occupato di spiegargli la sera prima, e quindi è stato, ecco, e allora poi gli ho raccontato che appunto, siccome ho scritto un messaggino, un WhatsApp ai preti dell'opera, così, allora subito Don Carlo De Marchi ha esultato, cioè ah, finalmente il padre celebra l'ambrosiano, allora poi gliel'ho raccontato, loro si sono messi a ridere perché la sua milanesità è molto proverbiale. Comunque, ecco, e fra l'altro appunto eravamo lì in sacrestia, io mi sono fatto avanti per dirgli, padre, stia attento, il tipico errore che fa uno che è abituato a celebrare in romano con la messa ambrosiana alla fine, quando porge la benedizione, no? E dà subito la benedizione senza aspettare i tre Kyrie eleison. Allora, comunque, io ho detto, comunque, padre, non si preoccupi, anche il Papa ha fatto questo errore, ha sbagliato, quindi avesse messo a ridere. Poi lui non ha sbagliato, perché poi era anche molto aiutato, e poi, insomma. Per cui, ecco, vi dico anche questa, niente, volevo dirvi questi due gesti fuori programma. Dopodiché, io penso che, ecco, l'impressione che ho avuto io, al di là delle cose che c'è detto, poi magari vi dico qualcosa anche in sintesi, è appunto che lui è stato con noi in modo molto semplice, molto normale e allo stesso tempo molto paterno, ha ascoltato molto, no? Con interesse, ha voluto conoscere ciascuno e è anche stato disponibile a parlare con tutti quelli che potevano un po' in qualche modo, cioè con tutti quelli con cui poteva li ha ascoltati, no? Anche chi ha voluto parlargli anche personalmente, no? Senz'altro qualcuno ha notato che qualcuno di con noi abitava anche in quattro dell'equipe che filmava gli incontri, alcuni incontri, non tutti, che poi scherzando dicono che invece il padre non è che ci tiene molto, infatti qualche volta li ha bloccati, diceva come, ma voi registrate tutto quello che faccio? E allora sono un po' ritratti, però in effetti si rende conto che è bello anche che infatti potremmo avere qualche piccolo filmato. Loro hanno fatto un piccolo video che c'è su YouTube di 5 minuti, così proprio qualche immagine per dare un'idea, no, del clima che si è creato, che effettivamente dà bene l'idea di un clima molto simpatico, molto spontaneo, molto di famiglia. E quindi vi dicevo che ecco, queste clip ha notato anche che qui si è creato un clima di particolare spontaneità, no? E poi loro hanno anche detto che quando hanno visto questi incontri che facevamo con le famiglie, in vari luoghi, lì nella casa dove stavamo, oppure anche qua in Visconteo, cercavano un posto un po' ampio dove potevano mettersi le varie famiglie che lo volevano salutare, e lui stava a tu per tu con ciascuna famiglia, in modo tale che il dialogo era riservato, no? Poi si faceva fare una foto, poi gli regalava i rosari e le caramelle ai bambini che ci mettevano meno di un secondo ad aprire il pacchetto, e quindi gli regalavano i loro disegni, così via. Allora, loro dicevano che quasi in quel momento gli sembrava che il padre desse il meglio di sé, cioè il luogo in cui lo si vedeva più a suo agio, nel dialogo personale con queste famiglie. Quindi io vi ho detto che ho avuto questa impressione, perché poi con lui veniva spontaneo dire tutto. Io stesso che lo conosco poco, cioè l'ho sempre visto lì accanto a Don Javier, però non l'ho avuto né come professore né come. Appena siamo stati in macchina per andare da Maria Dolores, anche perché lui diciamo, è tendenzialmente silenzioso, cioè non è uno che dice anche poche parole, però. Mi diceva uno che ha parlato con lui a tu per tu, dice poche parole, ma però tutte quelle che deve dire, cioè no, alla fine evidentemente è molto profonda. Allora io gli ho detto, padre, me ne trovo, è scherzata, evidentemente lui lo sapeva tra le prime che sono venute qua, poi è anche la persona che ha conosciuto mia madre, no? E quindi andava a casa a trovarla, perché. E poi io gli ho detto, poi narra la leggenda che quando mia madre aveva ricevuto la proposta e aveva accolto volentieri di chiedere l'ammissione all'opera come supermaia, quindi ha scritto la sua letterina per dire. Allora, per poter scrivere la lettera, mi ha messo in braccio a Maria Dolores, no? Allora, poi quando mio fratello ha detto a mia madre che io avevo detto questo, e mi ha detto no, non è una leggenda, è proprio vero, cioè, quindi, comunque, ma per dire il clima simpatico che c'era con il padre, che ti veniva voglia di raccontargli tutto, no? Di quello che vuoi, e così è successo, no? Anche la disponibilità, effettivamente, perché uno pensa c'ha tante cose da fare, potrebbe, che so, appunto, mettere un po' le mani avanti, invece. Io ho avuto due occasioni di notare questo. Una volta lì a casa nostra, dopo pranzo, l'ho incontrato nel soggiorno grande dell'Accademia, i ragazzi giovani che abitano lì, e poi alla fine uno di loro che l'ha salutato, ma solo così, mi ha dato un abbraccio così, però non aveva avuto modo. Poi parlando con me mi ha detto, ma io gli avrei voluto chiedere questo e quest'altro, no? E allora io in quel momento ho avuto una piccola ispirazione, ho detto, beh, senti, andiamo a vedere se è libero, se ti riceve. E senza dire niente a nessuno siamo andati su, io ho bussato alla sua porta e lui ci ha detto avanti, e allora che c'è? E sì, però si è alzato, stava leggendo alcune lettere perché gli arrivavano molte lettere, soprattutto, sai, ecco. Molte lettere, soprattutto le donne scrivono molto. Allora, lui aveva queste lettere sul tavolo, aveva una ventina di minuti di intervallo tra una cosa e l'altra, e Invece lui è venuto verso di noi, gli ho presentato questo ragazzo, in sintesi ha capito che aveva voglia di parlare con lui e gli ha dedicato, io penso, 12 minuti di quei 20 che aveva. E meno male che non c'erano questi due sacerdoti simpatici che... Ma in realtà, anche se ci fossero stati, loro facevano proprio... gli facevano incontrare la gente, cioè non erano custodi nel senso di custodire, ma invece di... favorire che potesse la gente parlare con lui. Quindi, di fatto, e poi un'altra volta che invece ho voluto entrare io per fargli dare una benedizione alla foto dei miei genitori che non erano riusciti, appunto, non avevano potuto salutare a Caglio. E poi gli volevo dire che il giorno dopo partivo, quando anche lui partiva, ma io partivo un po' prima perché andavo a Roma a fare incontrare un gruppo che stava a Castelromano e avrei dovuto anche fare una lezione sulla direzione spirituale a questo gruppo di numerarie e quindi appena gli ho detto questo lui mi ha detto di loro che nessuno è obbligato a dire nulla nella direzione spirituale, cioè è un atto libero, no? Non siamo obbligati a dire cose. Poi c'è il suggerimento di aprire il cuore perché per essere aiutati anche è valido, ma nessuno è obbligato a dire quell'argomento o quell'altro. La tematica della libertà interiore è stata un tema trasversale degli incontri, anche delle risposte che dava ad alcune domande, è stato uno dei temi, no? Poi, senz'altro, in quei minuti mi ha ribadito questa dimensione della libertà interiore come molto importante nella formazione, no? Cioè, che le persone facciano le cose per amore, no? E non per senso del dovere, no? Cioè, poi, facendole per amore, spesse volte diceva uno può fare anche qualcosa che non gli piace, no? E non è che dobbiamo fare solo cose che ci piacciono. E così come poi mi ha ricordato anche di pregare per lui e anche di questa stessa cosa che diceva quella persona, cioè di scrivere pure le cose che a noi sembrano interessanti per il governo dell'opera. Quindi vi dicevo la disponibilità, no? Anche la paternità, secondo me, ecco, come dire, accogliente e incoraggiante, cioè l'affetto incoraggia, no? L'affetto. Io mi sono fatto quest'idea che lui, non è che sono stato proprio a tutti gli incontri che ha fatto, però riflettendo ho detto, ma c'è stato qualche volta che ci ha fatto una correzione o una puntualizzazione, un rimprovero, diciamo così, tra virgolette? Penso di no. Cioè ha sempre proposto cose anche belle, magari impegnative, ma sempre in positivo, rilanciando. Poi mi è venuto in mente, ma forse c'è stato una volta, eravamo dopo cena che c'erano alcuni che parlavano, allora un aggregato grande di Milano che gli ha raccontato un po' di cose della sua vita e poi anche di un amico che era un po' lontano dalla fede, che è un episodio che poi si è concluso positivamente come un avvicinamento e poi lui ha chiosato dicendo, vede padre che qualche persona in gamba buona, con buone disposizioni c'è, no? E allora il padre è stato l'unico momento in cui l'ha contraddetto qualcuno, ha detto, no, no, non qualche, ce ne sono moltissime di persone buone, di persone che ci stanno aspettando, che stanno aspettando i cristiani che dicano, cioè, che parlino loro di Dio. E capite, no? Cioè, l'unica cosa in cui ci ha corretto è per rilanciare verso il positivo. Io penso che, ecco, spesso anche un altro tema che è uscito nei suoi incontri è senz'altro la centralità di Cristo, no? E poi lui volentieri si riferisce al congresso, cioè anche, come dire, non si mette lui in mostra, come dice, sapete che il congresso recente che abbiamo fatto, quello dove è stato lui eletto, poi si sono fermati a dire altre cose e lui poi ha scritto una lettera che c'è su internet, 14 febbraio del 2014, e ha ribadito questo fatto, andare all'essenziale della vita cristiana, centralità di Cristo, e poi anche se vogliamo dello spirito dell'opera, cioè gli aspetti essenziali dello spirito dell'opera, no? E la libertà interiore, ve l'ho detto, fare tutto per amore, anche essere gioiosi e allegri, anche se le cose vanno male, però avere una gioia profonda che viene dalla fede. Il fatto di pregare molto per il Papa è stato un altro tema che quasi si vede che se l'era proposto alla fine di ogni incontro, anche con le famiglie, no? E salutava personalmente, poi alla fine, prima di dare la benedizione a tutti, diceva, ecco, vi voglio dire una cosa, il Papa ha un peso molto importante sulle spalle, per la Chiesa, per il mondo come sta, quindi chiede sempre preghiere e noi abbiamo il dovere da figli di pregare, molto per lui, no? E poi che altre cose vi posso raccontare? Vabbè, senz'altro, diciamo così, si capisce che ha una simpatica, diciamo, ha molto buon umore, no? A volte si prende anche un po' in giro, no? Perché per esempio lui in spagnolo gli viene, quando si conclude, poi quando ha concluso quello che doveva dire, che spesso è una cosa molto breve, ma allora lui gli viene da dire muy bien, e poi dopo un po' si prende in giro e dico, no, dico molto bene quello che hai detto tu, non quello che ho detto io, no? Perché è un modo di dire, insomma. Anche spesso lui si dispiaceva di avere l'italiano un po' arrugginito, perché di fatto nel governo dell'opera si usa il castigliano, la sua lingua d'origine, come lingua comune, no? Per tutto il governo dell'opera universale, quindi anche scrivono in castigliano, si parlano, poi insomma, anche tra spagnoli e sudamericani è una lingua molto, e anche, no, non bisogna chiamare sudamericani, no, i messicani sono nordamericani, quindi sono notevole maggioranza, però in effetti lui dice, da quando ho smesso di fare lezione alla Santa Croce all'Università di Roma, il mio italiano è un po' arrugginito, no? Anche se poi tutte le volte che si voltava verso me per chiedere, come si dice in italiano, questo era sempre lo stesso, questo è tipico, no? Ecco, un'altra cosa un altro tema che lui ha trattato molto spesso, cioè all'interno dell'opera, voi sapete che c'è la vocazione all'opera, che è la luce che il Signore dà, che uno vede, come dire, la sua vocazione battesimale di cristiano comune, illuminata da questo spirito, per cui dice, il Signore mi chiede di viverlo, no? Vocazionalmente, la santificazione delle realtà ordinarie, l'apostolato di amicizia e di confidenza. Va bene, ecco, allora lui diceva, questa vocazione è unica, anche se ci sono modalità diverse di viverle, quindi ci sono le soprannumerarie, cioè, modalità diverse di relazione con l'opera, no? Di disponibilità, le numerarie ausiliarie, le aggregate, le numerarie, però diceva, la vocazione è la stessa, no? E soprattutto le soprannumerarie, che sono quelle che vivono per conto loro, nella maggior parte dei casi sono sposate, hanno una famiglia, che hanno, per dire, una disponibilità, una dedicazione un po' minore, mentre, che so, il numeraio si occupa, vive in un centro dell'opera, è disponibile anche ad andare altrove per esigenze formative dell'Opus Dei. Alle sue diceva, voi siete del Busei come me, no? Quindi è importante questo concetto. Dopodiché l'altro aspetto che diceva invece proprio a tutti, questa missione che il Signore ha affidato al fondatore, poi è passata anche a tanti di noi, di cui anche i cooperatori, gli amici fanno parte, eh? Questa missione non è che si realizza solo, che so, compiendo alcuni atti di preghiera, di vita di pietà, le norme, il piano di vita spirituale, oppure facendo dei mezzi di formazione, oppure occupandosi, che so, appunto, di un'attività tipo questa, una residenza universitaria, ma l'Opus Dei si fa con tutto quello che facciamo. Ecco, quindi non è un'idea nuova, ma io ho notato che lui la sottolineava spesso, cioè l'Opus Dei non è un'attività, non è fare alcune cose, ma diceva, l'Opus Dei sono le persone e tutto quello che facciamo, no? Cioè, pensate, che so, appunto, una madre di famiglia, l'accudire i figli, il lavoro della casa, tutta la vita coniugale, tutto questo è Opus Dei, no? E no, ovviamente il lavoro professionale di ciascuno e la vita sociale, la vita politica, tutto quello che fa qualcuno di noi. In questo modo realizza il compito di portare Cristo, avendolo un rapporto importante con lui in mezzo al mondo, con la sua persona, no? E vediamo se c'è qualche altro aspetto così, senza, sicuramente ce ne sono tanti altri, no? Qualcuno ha una domanda? Non so, vediamo un po' se voi avete qualche... Ecco, scusate, l'altra cosa che io, che forse non ho detto tanto, invece mi ha impressionato la quantità di volte che quasi rischiando, proprio lui che è un grande teologo, ha scritto libri profondi, invece, come dire, nelle risposte era molto semplice e quasi ripetitivo in ambiti diversi, no? Cioè, per esempio, quasi sempre quando una persona gli raccontava e gli chiedeva consigli su aspetti di apostolato personale, cioè persone lontane, persone difficili, persone atee, non so quello che siano, non credenti oppure in situazioni. Però lui alla fine diceva: guarda, l'amicizia personale, l'amicizia personale è quello che conta, cioè con una grandissima fiducia che di qualunque situazione si tratti, di qualunque problematica, no? Cioè, uno, non so, dico io, si sarei aspettato da un professore di teologia, dico, studia la teologia, studiati ti consiglio della bibliografia, quel libro, no? Natura, grazia e gloria che lui ha scritto, no? Invece niente di tutto questo, dice, guarda, l'amicizia personale, come dire, quasi il mezzo che è l'amicizia, perché lì passa l'amore. No, l'amicizia, lui diceva, è amore, no? L'amore, amicizia, cioè volere il bene dell'altro, questo è l'essenziale dell'amicizia, no? E lui diceva, guardate, se tu personalmente dici una cosa vera, no? Che ti capita dentro la vita, che il Signore ha fatto nella tua anima, no? Cioè, ad esempio, ti sei confessato e sei molto felice, no? Puoi scherzare, cioè, beh, devo dire se è vero, Sì. no? Non puoi non dirlo se... Però quella cosa, anche se in quel momento non ha un'apparente efficacia, in realtà rimane molto dentro perché quella persona si rende conto che gli stai dicendo una cosa vera e ecco, come dire, che nostro Signore conta su questo amore personale, su questa verità delle cose che ci diciamo personalmente, e anche non solo personalmente, anche in famiglia, anche in gruppo, si capisce, ma però lui sottolineava soprattutto questo aspetto dell'amicizia personale ma poi nella vita, in queste cose che voi forse non avete occasione di vedere nella vita normale, naturalmente quello che succede è che, per esempio, stando con lui, no, a pranzo, a cena, nei corridoi, passando, allora c'è la possibilità di raccontargli notizie che abbiamo. A volte sono notizie belle, a volte sono notizie di persone che hanno, no? Per esempio, della tua bambina che è caduta da 2 metri di altezza, gliel'abbiamo detto, perché sappiamo che questa... Poi è andato tutto bene. Poi che... Però è successo in quei giorni. Allora, gliel'abbiamo detto, sicuramente queste cose poi entrano nella sua orazione, poi sappiamo che c'è, come dire, un gioco, perché tantissime persone pregano per le sue intenzioni, quindi se lui mette nelle sue intenzioni qualcuno, senz'altro c'è tutta una comunione dei santi che prega per queste cose, allora, la persona che è morta, quell'altra che no, abbiamo avuto anche diversi funerali in quei giorni. Ecco, quindi di fatto lui è attento alle cose, chiede alle persone se hanno dormito bene e così, queste cose di questo tipo. Quindi diciamo è una vita di famiglia molto gradevole quella di stare con lui. Noi pranzavamo in una sala pranzo abbastanza grande, quindi abbiamo potuto invitare varie persone che hanno potuto, quindi mettevamo a tavola con lui in modo che potevano anche lì raccontargli varie cose. A me ha colpito anche come la serenità con cui ha vissuto piccoli, non so, appunto, cambiamenti di programma, inconvenienti, non so, che quando mi hanno raccontato che quando è andato alla Torre Scala era previsto che facesse lì una merenda, no? e la porta della sala pranzo era chiusa, stranissimo, ma poi ho capito, mi hanno spiegato perché avevano avvertito che c'era un ritardo, poi in realtà è arrivato prima, per cui non è colpa dell'amministrazione, però allora poi hanno chiamato, però la possibilità di stare lì, di stare, vedete che aveva piacere di stare con le persone, di parlare, cioè qualunque cosa succedesse andava bene, no? Un giorno. Sapete che dopo pranzo noi facciamo la visita al Santissimo, no? Abbiamo l'abitudine di andare. Però un giorno lui è passato a salutare quelle dell'amministrazione, a ringraziarle per il loro lavoro e quelli che sono andati nell'oratorio non si sono accorti, no? E quindi hanno cominciato la visita come se lui fosse presente, per cui dopo lui è arrivato che era con gli altri due o tre che stavano con lui, con Don Matteo, e che era già cominciata la visita, il direttore della casa. Infatti, il direttore di casa nostra ha detto, ma com'è possibile? Si è subito un po' innervosito, poco poco. Però invece lui niente, ah benissimo, andiamo e siamo andati subito che aveva previsto un incontro, una tertulia con nel soggiorno dell'assessorato, per cui di fatto voi avete avuto qualche minuto in più proprio perché noi abbiamo fatto quell'errore. No, ma questo è interessante, cioè la serenità di fronte a così a piccoli imprevisti. E, non so, vi ho dato un po' un quadro abbastanza. Ma è vero che non andiamo a prendere l'aereo? Ho sentito Ma un può da... non lo po' so, guarda, in effetti quello l'abitudine, grosso la legge, non lo so, no. Io penso che l'abitudine della macchina, della macchina è già cominciata qualche anno fa con Don Javier, il quale aveva diversi problemi di schiena, e quindi di fatto alla fine la macchina un po' ampia, un po' comoda, favoriva i passaggi. Dopodiché forse hanno visto che alla fine aveva anche dei vantaggi rispetto, sai, a tutta la programmazione di viaggi, di biglietti, di cose, per cui no, non penso, piuttosto quello che vabbè, avevo no, qui in Europa può andare in, no, ma no, non credo, è andato tanto in aereo, non credo che ci sia questo problema. Va bene. Allora, non so se avete qualche altra domanda. No. Dopo questo Bene. consiglio logicamente proprio. Vabbè. No, Riposa effettivamente, anche, diciamo, cioè, come? Se riposa? riposa. Sì, no, io penso che, no, gli abbiamo sempre chiesto se aveva dormito bene, effettivamente dormiva bene, la stanza andava sull'interno di un cortile, quindi non c'era il traffico. E, per cui quello, sì, no, alle 10 di sera interrompevamo la tertulia, facevamo l'esame di coscienza e poi lui si ritirava. Mi immagino che quindi avesse, ecco, il tempo notturno è un tempo di raccoglimento, di riposo, e poi ha il vantaggio che effettivamente dorme. Però in effetti il ritmo era intenso, anche se lui lo viveva, cioè con la vita precedente da vicario generale ha fatto una vita simile, ma anche se il padre era un altro e quindi lui semplicemente lo accompagnava. Quindi, però come ritmo di cose probabilmente ha avuto un po' questo tipo di abitudine. È andato anche, lo sapete, è andato a salutare. Sul sito c'erano sette paginette, sul sito dell'Opera d'Italia, con un po' di sintesi. È andato a salutare Carli della Scola, si conoscono appunto come Congregazione Dottrina della Fede, poi erano consultori insieme, si conoscono dall'88, diciamo, siamo amici dall'88, quindi stati parecchio insieme. Invece Monsignore del Pini era in viaggio, quindi non ha potuto salutarlo. Poi è andato in Duomo, ha pregato davanti alle tombe dei vescovi Schuster, poi Martini, Tettamanzi, che hanno fatto il funerale poco tempo fa. Bene, per cui io direi che erano molto contenti, ecco, sia lui che i suoi due giovani sacerdoti che lo seguono, Don Jorge e Don Vicente. Bene, per cui Ma io siamo avevo felici. chiesto ai due sacerdoti se si stava riposando, cioè se si stava stancando il padre. Tu hai chiesto? No, Ah cioè, no. non io, una di casa mia. Ah. Però loro hanno detto, vabbè, loro due sono due persone molto simpatiche. Simpatiche, giovani, Cioè, sì. no, il padre è contentissimo, non si sta stancando. Perché cioè, comunque stare con le persone. Lo arricchisce, lo rigenera. Sì, effettivamente questo, perché io, alla fine, la sintesi che io ho fatto di questo viaggio è stato un momento di vita, di famiglia, cioè di paternità, cioè una paternità che noi abbiamo colto anche solo stando con lui. Lui dice che è un dono di Dio, che Dio dà all'opera, anche di avere questa perché a volte scherza quando la gente dice padre, le vogliamo molto bene. No, noi non abbiamo fatto questa esternazione, ma qualcuno forse sì. Allora lui dice, ma come fate? Non mi conoscete per niente. No, però si prende un po' in giro, ma però dice, però questo è un insomma, dobbiamo riconoscerlo come un dono di Dio. Quindi una paternità sua che di fatto automaticamente, immediatamente, faceva vivere alle persone che stanno con lui un senso di essere figli e quindi una grande spontaneità, un grande affetto che si manifestava molto normalmente. Quindi io penso che questo a noi ha facilitato, lui ci ha conosciuto, cioè, in effetti probabilmente è vero che anche questo è un dono di Dio, cioè che lui nell'incontro con le persone si rigenerava, no? Quindi non si stancava, ma invece senz'altro è stato molto contento. E 72 anni, 72, 73, sì. Sì, no, quindi ha già una certa età. Comunque, anche se con una delle prime numerarie, che la Gabriella, quello l'ho messo anche sul sito, che ha detto cosa ci dice della vecchiaia? Dice, non esiste. Quindi, alla gioventù dell'amore, eccetera. No, per cui io dico, vale la pena, sì, pregare per lui, per il lavoro che deve fare nell'opera in questi anni, perché è molto interessante, sono tantissimi aspetti belli da portare avanti, per cui, e anche perché lui riesca a portare questa paternità appunto anche negli altri paesi, anche nelle altre città, perché si vede che è molto efficace, no? Va bene?